24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. If Italy make the reforms, Italy will be the leader of Europe for the next 20 years. And this is not for applause, this is the reality. This is the reality. È che io vi assicuro che noi faremo un paese in cui si va avanti, ma perché il merito conta. Se poi volete restare qui, perché vi sposate, vi fidanzate, perché state bene, perché vi piace più gli Stati Uniti, good luck. Costi quel che costi, potrò perdere le prossime elezioni, ma non perderò la faccia davanti a voi. Woody Allen said, "We must pay taxes with a smile. I tried, but they still asked for my money, not for the smile." So, we must absolutely reduce the taxation in Italy, because pay the tax with a smile is not the way. Ma come? Ma come? Cioè, per chi non sapesse l'inglese, allora Renzi è in America, oggi incontra Obama. Stava parlando agli italiani all'estero. Praticamente ha detto che pagare le tasse col sorriso non è proprio la cosa giusta. Ma come? Ma non era straordinario pagare le tasse, la versione di Padoa-Schioppa? Ma vabbè. Ma devo dire però che in inglese è un pochino migliorato, eh? Come pronuncia intendo. Si applica al ragazzo, si applica. Oggi con Obama, secondo me, potrà sostenere comunque un colloquio elementare, tipo lesson number 4. Abbastanza buono, dai. Sei meno meno. Anzi, chiederò subito con le palette in mano ai nostri ospiti, ovviamente, di dare un voto all'inglese di Renzi, quando qui si chiude la 102esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Mi dicono: togliete Benigni dall'inizio della sigla. Ma come faccio a toglierlo? Ma vi rendete conto che stiamo scrivendo settimana dopo settimana con questo Benigni di anni fa la storia politica italiana attuale? 102 settimane decisive, ovviamente, per la riforma elettorale e l'abolizione delle province, che si chiudono oggi con un nulla di fatto, ma la 103esima è alle porte e noi siamo sempre fiduciosi. Questo è 24 mattino, sono le 6:34 minuti in punto in questo momento. Lorenzo Nespoli è lì in redazione, lo saluto. Oggi abbiamo Carmelo Lauricella in regia, eh? È qui con noi. L'Alpino, arrestato, mi fa il gesto delle manette. Hanno arrestato Peter Biscabè? No, tranquillizziamo tutti, non è arrestato, sta solo dormendo. Dai, apriamo il Parlamento qua con Renzi che sta in America. Noi ci accontentiamo più umilmente di un Renzi, il nostro Carlo Renzi, presidente del Codacons. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Ho sentito che diceva che è un reality. È un reality cosa? Ha detto Renzi in inglese. È un reality. It's reality. È realtà. Perché reality è un'altra cosa. Non siamo in un reality. Carlo Renzi, oggi sono contentissimo perché abbiamo un graditissimo ritorno. Finalmente l'abbiamo strappata temporaneamente a Radio Capital. Temporaneamente. Vladimir Luxuria, buongiorno. Ma buongiorno, grazie. Come stai? Bene, molto bene. Tutto grazie. Bene. Very well, thank you. Oh, questa è una discreta pronuncia, insomma. Comunque, che cavolo, Se ricordiamo Berlusconi con Bush, c'è da dire che dai, facciamo una figura migliore. Sì, Berlusconi si esercitava più sul francese, effettivamente, era la sua, così almeno pare. Vabbè, ma il voto, Vladimir, voto a... Sei più. Perché dobbiamo incoraggiarlo il ragazzo. Oh, ecco, sei più. Rienzi, che voto diamo a questo inglese, a parte reality? Ma a me sto fatto il reality, mi lascia perplesso, veramente. Vorrei risentirlo a settembre. Rimandato a settembre. Quindi resta al governo Renzi, se ecco. Bisogna risentirlo a settembre. Quello mi sembra poco, ma sicuro. Ma chi lo schioda? Ma Vladimir, ma scusa, ma chi lo schioda? Ma voglio dire, c'ha i numeri, è ben saldo sulla poltrona, che dobbiamo fare. Vabbè, comunque sarà lì da Obama, oggi chiederà anche, scrivono i giornali, l'utilizzo dei droni per la Libia, non si capisce bene perché qui invece c'è una tragedia veramente in corso, di quelle gravi. Io mi taccio perché quando faccio i commenti poi su Twitter, la questione sullo scontro tra civiltà eccetera, mi taccio, voglio sentire da Rienzi e Vladimir Luxuria questo, un commento su questa vicenda per cui hanno buttato in mare delle persone perché cristiane. Allora Vladimir, comincia tu, le hanno buttate in mare perché cristiane i musulmani, così almeno dicono alla procura, che dobbiamo dire? Cosa bisogna dire? Che è una vicenda molto brutta, perché usare la religione, che dovrebbe essere la religione dell'amore, la religione della comprensione, per ammazzare un altro, credo che uno non ha capito niente né di religione né di Dio, comunque lo si voglia chiamare. In Italia abbiamo una legge che si chiama legge Mancino, che prevede l'aggravante quando un reato viene fatto, diciamo così, per odio anche nei confronti di una persona per la fede religiosa, e quindi credo che debba essere applicata assolutamente l'aggravante e la pena più severa per chi compie questo atto, questo tipo terribile, di cioè quello di dire tu in quale Dio credi, e se tu credi in un Dio diverso da me io ti reputo non solo inferiore, ma ti reputo addirittura una persona che non ha il diritto di vivere. Sì, la questione è a capire se abbiamo un problema, come io sostengo, vengo attaccato duramente per questo, come abbiamo un problema soprattutto con gli integralisti di una religione specifica, o no? Beh sì, il problema è non sono i musulmani, sono questo i fondamentalisti, no. Sono i fondamentalisti, perché si può convivere e si convive tra religioni diverse. Io mi ricordo se uno va in Marocco, per esempio, è colpito da un cimitero ebraico che è enorme, che è un cimitero che dimostra che quando l'Europa cacciava via gli ebrei era il Marocco che li accoglieva. C'è stato un periodo, è possibile la convivenza, purtroppo ci sono delle persone che non per questioni religiose, diciamoci la verità, ma per questioni economiche, perché questi cercano il petrolio, strumentalizzano la religione per mettere le mani sul petrolio. E i ragazzi che si arruolano nell'ISIS, i musulmani che si arruolano nell'ISIS, non lo fanno per religione, lo fanno perché vengono pagati da questi signori. Vengono pagati un po' come i ragazzi a Scampia vengono arruolati dalla criminalità organizzata. Questi ragazzi vengono stipendiati, vengono pagati con fior fior di soldi da questi bastardi, perché credo che sia il termine giusto. Però qui Rienzi, che si fa? Cioè, nel senso che a me ha molto colpito, oggi molti giornali aprono proprio con questa notizia, buttati in mare perché cristiani. Dunque, io intanto penso che non è sicuro che sia così. Questo chiaramente va. Quando di mezzo ci sono criminali, come ci sono, perché ovviamente quelli che fanno questi trasporti sono criminali, e ci sono interessi economici molto forti, insomma, prima di dire questo è successo per questo, questo è successo per quell'altro, la cosa lascia un po' perplessi che non si riesce a fare inchieste, cioè si fanno tante inchieste, intercettazioni, cose in Italia, si scopre tutto, Roma, la fama delle mafie, Roma capitale, eccetera, nei piccoli, anche piccoli appalti di 10.000 euro, 20.000 euro, eccetera, e non si riesce a capire dov'è il meccanismo organizzato. Capisco che è in Libia, probabilmente in altri paesi, ma ci saranno dei soggetti che sono sempre gli stessi, non so, una cinquantina, dei soggetti che ormai credo che la magistratura dovrebbe conoscere, avendo interrogato tutta questa gente, ci saranno degli indizi tali per cui si sanno chi sono queste persone. Allora, una bella indagine, comunque con mandati di cattura internazionale per tenere, poter anche fermare le barche prima, individuare queste persone, arrestarle, insomma fare qualche cosa in questa direzione, perché è la speculazione economica che c'è dietro, che muove anche. Eh sì, ma vai a beccarle in Libia, cioè questo è un po' il problema. No, becchiamo appena arrivano, però, perché qualcuno li porta, non è che vengono da soli. Ma se abbiamo avuto anche due giorni fa, li scaricano in mare, magari su rimorchiatori privati, poi arrivano col Kalashnikov, sparano in aria per farsi ridare il barcone, cioè nel senso che non è una migrazione via terra che è più controllabile, in mare è tutto un po' più, se siamo impotenti dobbiamo ragionare sui luoghi di provenienza. Io ho visto, adesso per fare una citazione cinematografica, il film Timbuktu, che ha vinto anche un Oscar, che è molto bello secondo me, però è stato attaccato in Francia. Ma è chiaro che fuggono da situazioni... No, perché lì si capisce che non è che i musulmani sono persone anche buone, sono persone di buoni sentimenti, che sono però da... probabilmente califfi o comunque soggetti che hanno interessi economici forti, sono condizionati a delle regole che vengono imposte poi alle popolazioni locali, nelle quali non credono molte volte nemmeno loro. Quindi è purtroppo a monte l'origine di tutto quello che succede, ed è molto difficile da sia capire sia soprattutto impedire, è anche un po' da accettare quando succede cose. Che c'è, no, volevo solo aggiungere che è vero, bisogna ancora appurare la verità se sono stati buttati a mare, però se per il fatto di essere cristiani o meno, però purtroppo abbiamo dei precedenti terribili, perché a Garissa in Kenya hanno fatto questo, cioè hanno proprio selezionato le persone in base alla fede religiosa, li hanno fatti fuori, per cui purtroppo non è così raro, che siano stati buttate in mare magari chiedendogli prima se conoscevano a memoria delle frasi. Secondo le testimonianze addirittura urlavano Allah è grande mentre li buttavano in mare, ma comunque io mi taccio, perché sennò poi dopo la gente su Twitter mi attacca, eccetera, chi se ne frega, vabbè. Allora, ma c'è uno che ci scrive: effettivamente che problema c'è con reality, Rienzi? Vabbè, sì, effettivamente il doppio senso, viviamo in un reality, è un po' così. L'ha colpita questa cosa. Mi ha colpito molto invece. Noi alle 8:15 parleremo di questa vicenda del G8 per chiudere un po' la settimana. Hai visto, Vladimir? Siamo ripiombati anni fa. Tu che faresti a questo poliziotto Tortosa che è stato sospeso? Oggi il giornale scrive: paghiamo noi lo stipendio a Tortosa, questo poliziotto sospeso dalla polizia. Devo ricordare che almeno su questo, insomma, nessuno può dire che non aveva ragione chi, come quando stavo in Parlamento, chiedeva una commissione d'indagine parlamentare sui fatti di Genova, e si opposero in tanti, la destra si oppose Di Pietro, eccetera. Ma quello che dico io è questo: allora, questo poliziotto ha scritto delle cose su Facebook, e ricordiamo che scrivere delle cose su Facebook o su Twitter non è come mandare un SMS tra privati cittadini, vuol dire fare delle dichiarazioni pubbliche, tant'è che Renzi ormai non chiama manco più l'ANSA, ma manda direttamente dei Twitter e tutti vanno ad attingere dei social network. Ora, lui ha scritto: andrei 10.000 volte, rientrerei 1.000 volte, e poi ha scritto: spero che Giuliani faccia schifo anche i vermi. Su questo devo dire, fa ancora oggi un'intervista al giornale, dice: chiedo perdono umilmente perdono per quella frase. Noi avremo il papà di Giuliani alle 8:15. Sì, allora, a parte che ci sono tutti questi Buscetta dei pentiti che scrivono e poi dopo si pentono, e credo che un poliziotto dovrebbe fare del controllo dei nervi una virtù, cioè l'idea di pensare che ci sia un poliziotto che, insomma, così a queste perde così il controllo. Insomma, tu, secondo te è giusto sospenderlo per te? Secondo me sì, sinceramente sì, perché dopo, a parte che diciamoci la verità, probabilmente sarà l'unico a pagare, perché poi quelli più dalle più alte sfere vengono tutti protetti. E diciamoci ancora la verità che se non ci fosse stata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nessuno in Italia si sarebbe più occupato di Genova e nessuno avrebbe accelerato sulla questione del reato di tortura. La vicenda è un po' così, che poi sia l'unico a pagare, anche questo è vero. Certo, l'ha fatta un po' grossa con queste dichiarazioni. C'è da dire appunto che chiede umilmente perdono, dice non sono un torturatore, sono adesso il capo espiatorio, pago per tutti. Vogliamo sentirlo, Tortosa, che dice? Sentiamo. Io sono in questo momento il capo espiatorio di non so neanche cosa, ed è paradossale tutto quello che mi stia accadendo, in quanto io che non sono stato sfiorato neanche da un'accusa, oggi subisco questa gogna. La gogna. E poi ancora chiede scusa ai pestati. Ma lei come poliziotto si sente di chiedere scusa a qualcuno di quelli che sono stati pestati alla Diaz? Come poliziotto sì, come appartenente al settimo nucleo no. Ecco, c'è ancora questa cosa. Vabbè, ma riprendiamo qui dopo il traffico, perché il settimo nucleo, sì, ma racconta oggi il Corriere della Sera che, vabbè, nessuno è condannato di questo settimo nucleo, ma perché? Ma perché non sono stati individuati? Non sono stati individuati. And it was a worker, so he invented the telephone to speaking about in the theater. 24 mattino. Ciao Milan, ti volevo dire che palle, rottamiamoli tutti sti politici, è ora di cambiare, ma tutti quanti, mettiamo politici dai 25 ai 30 anni e basta. Sentitevo la zanzara di martedì sera e vedete che un poliziotto ha spiegato per filo e per segno che non ha partecipato alle manganellate, ha detto che stavano i poliziotti in borghese, che disse ma che conosce, capisci signor Milan, fate una ripassata e fate un esame di coscienza. Ma signor Milan, ma voi che cazzo tenete in gabbia signor Milan, scusate. Ti vorrei dire Alessandro che intanto la sua segreteria è bellina, però dei giornalisti che inviti sono proprio antifascisti, cioè di un'ossa che non esiste più, questi sono antifascisti, come i più stupidi d'Italia, mica perché io sono fascista, però è proprio questo antifascismo che non serve proprio a nulla. La battaglia per l'Italicum. Matteo Renzi è un gran decisionista. Non perde l'obiettivo mai di vista. Adesso c'è la legge elettorale, con tanti che la prendono un po' male. Ma lui non vuol sentire altre ragioni e dice non rompetemi i programmi. Ciao a tutti. Oggi la rima baciata non c'era in finale. Hai capito Vladimir Luxura come mi amano gli ascoltatori? Ma tu dovresti condurre un talent con tutti questi ascoltatori, certo. Altro che la De Filippi. Bella questa, altro che la De Filippi, farei uno share dello 0,304%, comunque va bene così. Allora qui Renzi, come la mettiamo con questo Tortosa? Avete fatto una causa voi del Codacons? Sì. No, non l'abbiamo fatta perché quello ha espresso le sue opinioni personali, non era manco presente, mi pare aver capito che non c'entrava niente. I poliziotti no, come non c'entrava? Era presente, sì, cioè è entrato, come no? Ah, è entrato, certo, no, non ho capito bene il suo ruolo. Lui no, come no, sono entrato ma non ho fatto niente. Non è stato sfiorato da indagini, non è stato imputato di nulla, diciamo che era dentro un gruppo. La cultura dei poliziotti è quella lì, probabilmente le scuole di polizia dovrebbero essere un po' diverse, cioè dovrebbero cominciare dall'educazione civica, dalla Costituzione, dal fatto che sia al servizio dei cittadini, dal fatto che la violenza scatena e genera altra violenza, cioè è un problema di educazione, di scuola. Quindi non ci possiamo meravigliare se queste persone che hanno fatto o poco o nessuna scuola in questo senso poi facciano queste affermazioni, perché all'interno dei corpi anche militari, cioè che è l'ignoranza il problema. Sì, sì, esatto, si crea una sorta di solidarietà contro il nemico che viene individuato in quello che occupa la scuola, in quello che occupa. Eh sì, c'è stata la contrapposizione, no? Sembra poi di stare. Io, siccome ho detto da due giorni che secondo me questo Tortosa non dovrebbe più fare il poliziotto, beh, per questo sono le accuse che mi sono arrivate, Vladimir. E allora la gente dice: sei contro la polizia. Ma che c'entra essere contro la polizia? Ma si può dire che quell'episodio è stata una vergogna? Posso dire che è contro la polizia chi agisce in questo modo, chi usa la divisa per usare la violenza. Adesso. Mi piacerebbe tanto sapere se qualcuno dall'alto ha detto a questi poliziotti andate lì e picchiate duro. Probabilmente questo non lo sapremo mai. Beh, questo è il grande interrogativo. Che uno, che un poliziotto che non è Tortosa, però quello che hanno fatto, siano entrati nella Diaz mentre una ragazza dormiva, tedesca, stava dormendo, una ragazza tedesca, la prendono, la massacrano di botte e mettono la testa dentro il gabinetto, io credo che sia ancor prima che un'offesa alla divisa che uno indossa, un'offesa proprio all'essere uomo. E quindi io credo che punire chi ha compiuto le violenze, in che qualche modo giustifica o attenua queste violenze, sia rendere omaggio a tutti quei poliziotti che invece fanno il loro lavoro e che sono la stragrande maggioranza, e anche direi soprattutto i poliziotti che hanno pagato per uno stipendio molto basso, con la vita, il servizio al paese. Tra l'altro io devo dire, mi è arrivata una segnalazione in presa diretta, no, torniamo alla questione dell'inglese, dalla nostra amica a cui mando un abbraccio, Alessio Vinci, che ci ha segnalato, perché voi volevate sentire Berlusconi in inglese, cara Vladimir, tu l'hai detto, detto, e mo beccatelo, e mo beccatelo. Considered there's the flag of United States not only a flag of a country, but is an universal message of freedom of democracy. Me la ricordo con Bush, con la faccia di Bush, che incredibilmente diventò espressiva in quel caso, no? E cioè, Bush no. Avrà pensato di aver esagerato con un whisky in più. Vabbè, ringrazio Alessio Vinci, al quale mando un grosso abbraccio, che ci ha mandato questa segnalazione. Beh, qua Rienzi, col voto siamo a che voto? Dai, su. Vabbè, no, Berlusconi fa più ridere, ma insomma fa tutte e due, francamente. No, dai, come inglese, sto dicendo. Come inglese sono un po' allo stesso livello. Dai. Che si sia tanta differenza. No, perché... dai, su, adesso. No. Cioè, adesso. Vabbè, io ragazzi, l'ho sentito. Ma vabbè, lo sento così. Cioè, Renzi almeno un po' di grammatica, un po' di pronuncia. Io qui faccio appello alla mia laurea in inglese, ho fatto anche supplenze di inglese, e devo dire che Berlusconi ha un voto, diciamo, direttamente proporzionale alla sua statura, basso, dai, eccolo, basso, eccolo lì. Ah, ma sei laureato in inglese, hai fatto supplenze, cioè, sembro scema. Ma chi l'ha detto questo? No, però per dire. Vabbè, io qua mi devo fermare. Allora ricordo anche, così lo diciamo, l'abbiamo strappata Radio Capital, ma alle 9, giusto? Sì, alle 9 sono nella concorrenza. Sei nella concorrenza, ma io lo dico, ma che dobbiamo... Ma sì, il geco e la farfalla, ma chi è il geco e chi la farfalla? Il geco si chiama Benny e la farfalla sommessamente sarei io. Ah, ecco, appunto, infatti, sembrava. Va bene, allora ringrazio Vladimir Luxura, ringrazio Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che ci deve ancora raccontare cosa successe con Di Pietro una volta, ma lo farà, prima o poi lo farà, e alla prossima. Se siete ubamiani, forward! Avanti. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti e cari ascoltatori, la 102esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province volge al termine inutilmente. Confidiamo come sempre nella prossima. Oggi cercheremo di chiudere una settimana di polemiche sulla questione del G8. Tornando su questo tema, avremo ospite Giuliano Giuliani, il padre di Carlo Giuliani. Avremo ospite Roberto Castelli, che allora era ministro della giustizia. Avremo ospite un poliziotto, Riccardo Gazzaniga, del reparto mobile di Genova. per parlare della vicenda di Fabio Tortosa, che ancora primeggia sui giornali perché è stato sospeso questo poliziotto che ha detto entrerei, rientrerei mille volte nella scuola Diaz. Le polemiche sono infinite, chissà se si concluderanno per questo che è stato uno degli episodi più importanti della storia recente italiana, il G8 a Genova. Ne parleremo delle 8:15, ora state con noi, leggiamo i giornali. In questo venerdì 17 aprile, che non è venerdì 13, ricordatevelo, è il vero, la vera data venerdì 13. Venerdì 17, dai, si può sopportare anche con un pochino di pioggia quella. Allora, il Sole 24 Ore apre su Atene che spaventa i mercati, vola lo spread, questo è il titolo di prima pagina, e poi la vicenda dell'immigrazione per molti quotidiani è il titolo d'apertura, Corriere della Sera, gettati in mare perché cristiani. 12 vittime su un barcone. La Stampa, barconi, l'ultimo orrore, cristiani gettati in mare. Anche il Messaggero, strage di cristiani sul barcone, così Avvenire, gettati in mare perché cristiani, muoiono in 12. Il Giornale, ora gli islamici annegano i cristiani a casa nostra, jihad nel canale di Sicilia. Per Repubblica, la politica è l'offerta di Renzi ai ribelli del PD, sì al Senato elettivo, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Fatto apre sulla vicenda della Paita, candidata al PD in Liguria, indagata, l'indagata non si tocca, Renzi e Bagnasco con la Paita. Bagnasco, il capo dei Vescovi, anche lui si è espresso su questo tema, però vogliamo partire appunto dal caso Tortosa, sospeso lui, ma sospeso anche il, come diceva ieri il Fatto Quotidiano, il responsabile della squadra mobile di Cagliari, che aveva semplicemente fatto un like, cioè il mi piace, aveva cliccato il mi piace sul post Facebook di Tortosa. Questo tra l'altro apre anche una serie di articoli di polemica, a dire ma com'è possibile c'è un mi piace che porti alla sospensione. Ma il caso Tortosa però ancora, ripeto, campeggia sulle prime pagine dei giornali. Pagina 21 del Corriere della Sera, Giovanni Bianconi racconta la sospensione dal servizio in attesa dell'annunciato procedimento disciplinare, una mossa del capo della polizia Pansa contro la gente che ha pensato bene di rivendicare via Facebook la sanguinosa irruzione alla scuola Diaz. È il modo di capire come il vertice dell'amministrazione abbia non gradito questa polemica sui fatti di 14 anni fa, di come intenda scrollarsela di dosso il più in fretta possibile, incolpandone i responsabili. Così il poliziotto Tortosa rimane sospeso perché dichiarazioni inopportune. Tra l'altro, come reagisce Tortosa? Beh, bisogna andare sul Giornale, dove bisogna partire dalla prima pagina per poi arrivare all'interno a una sua intervista. In prima pagina Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, prende questa iniziativa. Hanno sospeso il poliziotto orgoglioso della polizia, gli paghiamo noi lo stipendio. Così Alessandro Sallusti in un editoriale molto stringato: non ci stiamo, per questo ho chiesto di pagare lo stipendio a Fabio Tortosa utilizzando il nostro fondo costruito grazie alla generosità dei lettori per aiutare uomini delle forze dell'ordine in difficoltà, e lo faremo fino a che giustizia e buonsenso non saranno ripristinati. Dunque il Giornale pagherà lo stipendio a Tortosa, che parla, guarda caso, al Giornale. Massimo Malpica lo intervista, pagina 11. Non sono pentito di avere ribadito l'orgoglio di tutti i poliziotti che indossano la divisa con abnegazione e rispetto della legge. Lo sono invece per l'uso di parole soggette a un'interpretazione distorta. Per esempio Tortosa dice: mi vergogno ancora e chiedo umilmente perdono per le mie frasi su Carlo Giuliani. Quelle parole sono state un atto di pancia successivo alla batosta arrivata da Strasburgo, l'ennesima subita in questi anni. Poi ricorda ancora la vicenda della Diaz, l'irruzione, blitz rapido, il nostro, quelli del settimo nucleo. 6-7 minuti c'è stata qualche resistenza e nessun eccesso di violenza. Poi, quando ero già fuori dalla Diaz, ho visto cose strane, dice Tortosa, un gran viavai di ambulanze che non era congruo col nostro numero. col numero dei refertati e col poco tempo in cui siamo stati dentro, ma la cosa più strana l'ho vista coi miei occhi e con brividi il giorno dopo sui telegiornali, le immagini del sangue ovunque. E da dove veniva, secondo lei? Non lo so, posso solo immaginare che qualcuno, dopo la nostra uscita, abbia fatto ciò che poi abbiamo visto in TV. Solo noi del settimo nucleo eravamo identificabili, essendo stati mandati lì per servizio, ma c'era una pletora di soggetti non identificabili. Il giorno dopo ho capito che cosa era successo a nostra insaputa. Eccolo lì, bisogna aggiornare la lista. Anche l'irruzione alla Diaz con i crani fracassati a insaputa di chi, di chi c'era. Aggiorniamo la lista a nostra insaputa. In Parlamento intanto si chiede una nuova commissione d'inchiesta. Ne parleremo dalle 8.15. Intanto l'altra vicenda che catalizza l'attenzione dei giornali è questa della tragedia. Tragedia, nella morte di migranti che arrivati hanno detto poi sono stati uccisi. 12 persone sono state uccise, sono state buttate in mare perché erano cristiane e quindi i musulmani a bordo hanno iniziato ad attaccarli. Molti si sono difesi e sono riusciti a difendersi dall'essere uccisi perché si sono messi con una catena umana a opporre resistenza, seppure fossero in minoranza, si sono difesi in gruppo per cercare di non essere buttati in mare. Qui c'è il racconto ovunque sui vari giornali di questa vicenda. Io voglio raccontare cosa ne scrive Domenico Quirico, che sulla Stampa, tra l'altro 4 anni fa, fece da cronista per testimoniarlo e per scriverne quel viaggio a bordo di un barcone. Domenico Quirico, a pagina 3 della Stampa, racconta intanto della paura che ti prende alla gola e nel vedere quelle immagini, nel sapere questa notizia, si chiede dove è Dio. Perché non è intervenuto su quella barca spaventosa? Perché non salva l'uomo, quegli uomini dall'abbrunarsi di tutti i loro sogni e dalla sventura che gli sbocciano dalle carni e ricadono su di loro come uno sputo? Nella primavera di 4 anni fa, scrive Quirico, ho fatto anch'io il viaggio nel Mediterraneo dei migranti. Un centinaio di giovani musulmani erano con me, sapevano che ero occidentale e cristiano. E il tempo della traversata si squagliava tiepido e indolore, quel tempo che altrove era così duro, le ore simili a ruote di mulino che giravano ad agio, che con lenta perseveranza sminuzzavano il tempo. Abbiamo parlato per quanto si poteva in un mare in burrasca, schiacciati sul ponte. Abbiamo scambiato il pane e l'acqua. Alcuni di loro mi hanno raccontato i loro sogni, la fidanzata, un lavoro, l'Europa, la paura di scomparire in quella massa liquida, immensa e ostile. Il medesimo brivido proveniente dal medesimo mistero, la paura di morire, ci spingeva, io cristiano e loro musulmani, verso il medesimo infinito. Eravamo uniti da tutta la forza dei nostri due dolori. Soffrire insieme, che unione. Ma l'avvertimento che viene da questa tragedia del mare, scrive Quirico più avanti, è che quel popolo in fuga, i migranti, sta cambiando forse davanti ai nostri occhi. Dall'arrivo del califfato, della sua vertigine religiosamente totalitaria, così vicino a noi, escono uomini orribilmente nuovi, forse solo una terribile storia di 15 banali assassini. Eppure mi sembra che in essa tutto sia stato svelato almeno una volta, perché il musulmano ora si è trasformato in assassino, la fede in delinquenza, la solidarietà tra i miseri è diventata sterminio, ogni ideale si fa insanguinato dalla cruda realtà della violenza e della distruzione. Sì. Da quando il califfato esiste, il suo progetto totalitario avanza, è come se camminassimo su una lastra di ghiaccio che copre uno specchio d'acqua di profondità ignota. Il ghiaccio non si è ancora spezzato, ci sono persone intorno a noi forse pronte a correre in nostro aiuto, ma questo non cambia il fatto che il ghiaccio, prima o poi, si spezzerà. Sono già apparse le prime incrinature, per ora forse solo un innocuo scricchiolio. Forse. Così conclude ammonendo Domenico Quirico sulla Stampa. Ma veniamo a cose più prosaiche, quelle per esempio che ci fanno tenere le mani ben strette sul volante, per l'articolo che ci fa più insare di questa giornata, e lo diciamo e lo decliniamo anche in diretta su Periscope. Ebbene sì, oggi stravince Francesco Merlo, che con la sua penna sopraffina racconta la storia di quei sindaci della campagna che si sono candidati con il trucco. trucco, con il trucco, non è che si sono messi il rossetto, cioè con il trucco, cioè si sono dimessi. In quanto sindaci non potevano candidarsi alle regionali, quindi si sono dimessi con dei trucchi per candidarsi. Sono 7 i sindaci della Cazzimma, inizia Merlo, che a Napoli è la potenza irridente del guappo, il superomismo nicciano del rione sanità. 7 magnifici imbroglioni, 4 del PD, 2 forzisti e un indipendente di sinistra, candidati incandidabili alle elezioni regionali. Che han fatto di male queste 7 mascalzoni latini, li chiama Merlo, con un trucco di minutissima furbizia avvocatesca meridionale, una multa non pagata, una buca non riparata, un conflitto di interessi bancario. Questi sindaci pazzarielli si sono autodenunziati e dunque, in attesa che si risolva il conflitto amministrativo col comune che governano, si sono autosospesi dalla funzione, si sono cioè nascosti sul lembo del Vesuvio in una specie di limbo politico e così si possono candidare. E racconta Merlo, non dirò i nomi di queste 7 persone, se non di uno, non posso non citare Pino Capasso. Detto poeta, sindaco da 20 anni di San Sebastiano al Vesuvio, sospeso e al tempo stesso non sospeso, perché la sua sospensione è stata sospesa. O bandito poeta, come lo chiamerebbe Mario Merola, aveva pregato il capo dei vigili urbani di sospendergli una multa di ben 41 euro per divieto di sosta, quindi ha denunziato se stesso, aprendo il procedimento di sospensione. Ma mentre il consiglio comunale decideva, il capo dell'opposizione, tomo tomo, cacchio cacchio, raggiungeva l'ufficio postale e pagava la multa del sindaco. Tiè, la pago io per te. Allora, vale o no questa sospensione? Perché, si chiede Merlo, quesito giuridico, è lecito pagare la multa a qualcuno che non vuole pagarla? La sospensione vale ancora? Ma voi vi rendete conto in che razza di paese viviamo? Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il Barack Obama dell'informazione. Sì, il Barack Obama. A proposito di Barack Obama, Renzi è in America, incontra Barack Obama oggi, racconta il Corriere della Sera con Massimo Gaggi e Marco Galluzzo l'anticipazione di quello che Renzi e Obama si diranno. Renzi chiede agli Stati Uniti di usare i droni per la Libia. La Libia è uno dei temi certamente sul tavolo di questo faccia a faccia. Washington, racconta il Corriere, continua a mostrarsi poco disponibile a un coinvolgimento operativo, se non come supporto logistico, ma nulla più, davanti a questo paese sprofondato. Renzi è consapevole di questa difficoltà, sa che l'Italia dovrà assumersi responsabilità importanti, ma oggi tenterà di ottenere che cosa? La disponibilità americana a impiegare i droni armati in Libia qualora si dovessero rendere necessarie azioni mirate antiterrorismo, magari indirizzate contro minacce individuate dall'intelligence italiana. Questo dunque è un punto che Renzi cerca di strappare come impegno all'America, non un intervento ma almeno l'utilizzo dei droni. In cambio però, in cambio, si sa queste cose si fanno con un do ut des, Obama certamente chiederà a Renzi l'impegno a non tagliare l'acquisto dei supercaccia F-35 prodotto da Lockheed e realizzato con la collaborazione della Legna Finmeccanica, e anche chiederà Obama un rinvio almeno a metà 2016 del ritiro del contingente italiano in Afghanistan, soprattutto nella zona di Herat dove ci sono i nostri militari. Quindi la contropartita dell'Italia in cambio dell'utilizzo dei droni in Libia da parte dell'America sarà confermare l'acquisto di F-35 e ritirarsi dalla missione in Afghanistan un po' più in ritardo, a metà del 2016. Queste sono le anticipazioni del Corriere della Sera, vedremo se davvero uscirà questo dall'incontro Renzi-Obama. Certo, Renzi è andato via con tutte le, lo dico, le fibrillazioni all'interno del partito. Puntata numero 8476 della telenovela, scissione nel PD o resa dei conti del PD. Bersani, che è il più arrabbiato, dice siamo ormai al ghe pensimi con Renzi. Ecco però come racconta Claudio Tito su Repubblica, che prima di partire per gli Stati Uniti Renzi in qualche modo dà una contropartita politica alla minoranza del suo partito, ed è questa: il Senato può tornare elettivo, ma alt al bicameralismo. Claudio Tito, pagina 6 e 7 di Repubblica. Cambiare la riforma costituzionale e tornare al Senato elettivo? Per me si può fare. Così Matteo Renzi sta per salire sull'aereo che lo porta negli Stati Uniti, dove incontrerà oggi Obama, ma pensa alla battaglia politica. Forse per questo il premier decide di giocare la sua carta di riserva, un modo per riannodare i fili del dialogo, e dunque lo fa sul Senato. Gli argomenti usati per criticare l'Italicum, cioè la legge elettorale, dice Renzi, erano capziosi. In questa legge c'è un punto dirimente: il ballottaggio. Il doppio turno senza l'apparentamento ci permette di abbandonare per sempre quella specie di consociativismo vetero democristiano che ci ha accompagnato negli ultimi anni. Però apre sulla questione del Senato. Intanto dice: è Bersani che guida l'opposizione, la minoranza all'interno del partito. Gli altri sono un po' spaccati. Speranza si è immolato. Cuperlo non so cosa farà, ma i cuperliani alla fine voteranno la riforma. E invece Bersani guida la minoranza. E su questo ecco che dice Renzi: guardate che io ero d'accordo sul Senato elettivo. Fu Errani, cioè Vasco Errani, un uomo di Bersani, a dire di no. Dopodiché per me si può cambiare. A me va benissimo. Ecco la contropartita politica di Renzi. Si troverà su questo una ricucitura? Chi lo sa? Certo, Rosi Bindi sul Corriere della Sera dice: io lavoro contro la mutazione genetica del PD, intervistata da Monica Guerzoni, e dice: non so se nascerà un nuovo partito a sinistra. E riguarda la legge elettorale, così com'è, mi porta a non partecipare al voto. Ecco, così parlò Rosi Bindi. Siete contenti, cari ascoltatori? Ma è la politica. La politica, tra l'altro, fa registrare un passo in avanti di Raffaella Paita, indagata, candidata del PD in Liguria. Oggi fa una serie di interviste, non c'è giornale praticamente che non contenga un'intervista a Raffaella Paita, i cui toni sono molto semplici. Io sono forte come Rocky Balboa e vado avanti, non mi faccio preoccupare, sono una donna coraggiosa che combatte. Ha avuto anche un endorsement effettivamente un pochino strano, un po' peculiare, il Cardinal Bagnasco, che ieri intervenendo in un'iniziativa ha detto: chissà perché le indagini esplodono sempre in certe ore della storia, delle città, della nazione. Alzando gli occhi al cielo più volte, il cardinale a capo, presidente della CEI, dei Vescovi Italiani, ha detto questa frase. Ripeto, a prescindere dai fatti, c'è questa curiosità. Evidentemente, un po' ironicamente, ha detto Bagnasco, le indagini che esplodono sempre in certi momenti. Anche da Bagnasco l'accusa di una giustizia a orologeria. Vabbè, veniamo più alle cose economiche. Il Messaggero lancia un allarme, attenzione, lo fa Andrea Bassi a pagina 4 sui conti: c'è il rischio di una manovra. Non è che lo dice il Messaggero, non è che lo dico io, non è che lo dice anche colui che arriverà tra poco, cioè Mauro Meazza, ma lo dicono i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanze. I tecnici frenano il governo, c'è il rischio di una manovra fino a 6,4 miliardi. Riforme subito o Bruxelles ci chiederà una correzione dei conti. Il rischio dunque di una manovra. C'è l'allarme sulla possibile destabilizzazione dei conti pubblici per l'uso del cosiddetto tesoretto, i dubbi sul ridimensionamento del programma di privatizzazione. Ecco che i tecnici di Senato e Camera, non del Ministero, mi correggo, ma di Senato e Camera, non sono stati teneri con il DEF, il documento di economia e finanza, e hanno detto: attenzione, c'è il rischio di una manovra e che Bruxelles venga a bussarci alle porte. Risponderà Mauro Meazza per l'Italia. Buongiorno Mauro. Buongiorno, con piacere. certo, ecco. Con piacere. Cosa dirai? Perché... No, beh, mi sono documentato, stavo appunto leggendo poco fa sul Sole 24 Ore la ricostruzione di Marco Rogari, che spiega che effettivamente se dovessimo anticipare il, diciamo, il rientro, il piano di rientro dal 2016, mancherebbero sì, circa 6 miliardi. 6,4. Sì, vabbè, adesso insomma 2 euro più, 2 euro meno. 4 euro, non sono quei 400 milioni. Non sono i 400 milioni che stai a guardare il capello, però come dire, c'è questo rischio, però il Padoan ha detto che comunque l'Italia può crescere più di quanto preventivato, speriamo che abbia ragione lui. Intanto oggi, come sai, riferiamo delle questioni della Grecia, perché questo rischio di Grexit, insomma queste instabilità che ci sono connesse proprio al fatto che la Grecia abbia o non abbia modo di onorare i suoi debiti, ecco, preoccupano, agitano i mercati, ma lo spieghiamo in modo molto dettagliato. Varoufakis ha detto stanno finendo i soldi, che non è il massimo. Varoufakis insomma ci ha abituato a suo parlare un po' colorito, speriamo che sia un altro dei suoi passaggi al rialzo, insomma. Volevo dirti invece, sempre a proposito di soldi, che riferiamo alle pagine di finanza della due diligence su di te, cioè scusami, sul sì. Milan, ecco. Che battuta da prima elementare, è una battuta veramente di scarso valore, però appunto si sta discutendo sul valore, perché c'è, come sai, due contendenti possibili, possibili ingressi. Uno è nominabile, Mr. B, diciamo, perché il cognome Mr. B non vorrei, è indecifrabile. Non vorrei mancarvi di rispetto, Mr. B mi sembra, e Mr. P però ci sarebbe anche, sì. Quindi è abbastanza, c'è questa lotta tra due consonanti, vedremo chi se la giudicherà. Intanto ne riferisce oggi Carlo Festa sul Sole 24 Ore, pagine di finanza. E poi ti volevo dire che dal 1 giugno l'INPS pagherà le pensioni al primo del mese, torna a pagare in anticipo, non il 10, così ha promesso il ministro Poletti e noi correttamente ne riferiamo. Hai scaricato il 730 precompilato? Non ancora. Ma santa pazienza, vabbè, c'è tempo, sì. comunque. Sono pessime queste cose, è l'ultimo giorno. No, vabbè, hai tempo, d'accordo, però guarda, ancora oggi su 24 Ore, nelle pagine Norme e Tributi, ti spieghiamo i segreti, i misteri del 730 precompilato, il mistero senza fine bello, diceva il poeta. E poi, attenzione, ti ricordi gli incapienti? Come no? Gli incapienti che non potevano avere accesso al bonus di 80 euro, eccetera, eccetera, eccetera, perché appunto essendo incapienti, però c'è uno spiraglio indicato ieri in una risposta a un'interrogazione: se uno accede si fa dare il TFR in busta paga, potrebbe arrivare anche agli 80 euro. Un po' un passaggio, diciamo, una fusione di due misure, però lo spieghiamo, indovina un po' dove, sulle pagine. Assolutamente sì. E poi, caro Alessandro, sappi che un concorso tu puoi farlo annullare e ripetere anche 16 anni dopo. Ah. È successo. E quelli che sono stati assunti nel frattempo? Si rifarà così, ha deciso il Consiglio di Stato, così ti riferisce oggi Alessandro che 16 anni, dopo 16 anni si è deciso, vabbè, rifacciamo tutto, pazienza. Vabbè, potremmo, devo dire, speriamo che queste cose non si applichino magari ai campionati, se no non finiamo più, ci toccherebbe rifare. E perché chiudo in questo modo calcistico? Ma perché ti faccio tanti auguri, augurissimi per la partita di domenica sera, auguri caro Mauro Meazza. Auguri di un sereno weekend. Anche a te, soprattutto fino al finale, augurissimi. Tante care cose e soprattutto, caro Alessandro, traffico! Forza Alessandro, l'unico Milan che non perde mai. Effettivamente un po' è così. C'è da dire sulla politica che invece a destra Berlusconi ormai litiga con tutti, è arrivato alla resa dei conti con Fitto, pare ormai definitiva, ora litiga anche con Verdini, come racconta i giornali, per discutere della candidatura in Toscana. Berlusconi lite con Verdini al summit, la linea dura su Toscana e riforme. Anche per Repubblica Carmelo Lo Papa racconta, pagina 12, Verdini, Berlusconi Berlusconi, duello sul Nazareno. A un certo punto Berlusconi sbotta con Verdini dicendogli in faccia: vuoi uscire anche tu? Vuoi crearti i tuoi gruppi? Cala il gelo, forse quello finale tra Berlusconi e Denis Verdini, che rinfaccia al leader di aver chiuso il patto del Nazareno. È stato sbagliato, dice Verdini, te l'ho già detto, così non conti più nulla. E vabbè, e quindi questa vicenda. Mentre il giornale riprende l'inchiesta che fa l'Espresso sul ministro dell'interno Angelino Alfano. Il giornale dà molta evidenza, a pagina 2 e 3, a quello che viene titolato come consulenze milionarie a moglie e amico. 5 contratti per la moglie del ministro Alfano e per il suo avvocato poltrone e un appalto da 630.000 euro. Gian Maria De Francesco in prima pagina sul giornale, ma ripeto, è l'Espresso che ha fatto un'inchiesta definita gli affari della lobby Alfano, affari tra i quali ci sono anche quegli appalti ottenuti dall'amico avvocato Andrea Gemma, uno studio che si è aggiudicato un appalto da 630.000 euro per Expo. Il titolo di pagina 2 del giornale è gli affari degli Alfano, 5 consulenze per la moglie, favore milionari all'amico avvocato. Con questa inchiesta l'Espresso smaschera il conflitto di interessi del titolare del Viminale. Dalla consorte sono andati delle consulenze della Consap, a cui capo c'è l'ex direttore generale della RAI Masi. Comunque tutto è dettagliato sia sull'Espresso che sul giornale per quel che riguarda queste vicende. Vorrei andare a qualche cosa di cronaca che mi ha colpito. Sempre il giornale racconta che tra poco, anche se era prevista per l'Expo, ma non ce la faremo per l'Expo, ma bisognerà attendere qualche mese ancora, ma tra poco si potrà andare tra Roma e Milano in 2 ore e 20. Arriva il super treno che andrà a 330 km orari. Per andare in treno da Milano a Roma 2 ore e 20, anzi 350 km orari. Bisognerà però aspettare il 2016, perché ci vorranno questi 8-9 mesi, forse anche di più, dice il giornale con Marcello Zacchea, pagina 16, perché la burocrazia ha frenato tutto. In Italia infatti non si può superare la velocità massima di 300 km all'ora e quindi bisogna aspettare queste pastoie burocratiche. Manca la certificazione che permetta ai convogli di correre più velocemente. Che dobbiamo dire? Questo è. Voglio raccontare invece una notizia di cronaca sul Fatto Quotidiano. È una vicenda che riguarda un signore, il proprietario di un ristorante. Si chiama Luciano Faggiano e racconta tutto Alessandro Ferrucci a pagina 9. La vicenda non è male. Questo signore in un ristorante ha iniziato a scavare e a un certo punto si è bloccato il cesso, succede, e quindi ha dovuto abbattere tutto, fare dei lavori. Facendo dei lavori ha cominciato a scoprire che cosa? Una chiesa, i resti di una chiesa francescana, poi una tomba, affreschi, attrezzi antichi, oggetti sconosciuti ben conservati. E dice: più scavavo e più mi emozionavo, solo che io ho coinvolto lo Stato non aveva soldi. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tutto noi, abbiamo scavato, abbiamo fatto un museo privato con antiche tombe cristiane e romane. Luciano Faggiano, l'ha chiamato così, il museo Luciano Faggiano. Oh, è famoso in tutto il mondo, è finito sul New York Times, è finito sulle guide australiane. In Italia è sconosciutissimo questo museo, per lo più, mentre il museo Luciano Faggiano è conosciuto nelle guide australiane e è finito anche sul New York Times. Beh, una bella storia che trovate sul Fatto Quotidiano. Ma eccoci qui anche in diretta su Periscope per raccontare la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali. E siccome siamo in diretta su Periscope, che io non ho ben capito che cosa sia, ma siamo in diretta su Periscope, non poteva non andare l'articolo La carta costa a Selvaggia Lucarelli, che racconta di Periscope, la TV personale, questa nuova applicazione che è un'arma impropria per i narcisi, consente di trasmettere dal cellulare filmati in diretta. Quindi su Periscope diciamo che La carta costa va a Periscope. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che te pozzino via fuoco. Milan, il cagnastrandaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Siamo qui, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sono le 8:20 minuti e questa settimana la vogliamo concludere per quel che riguarda 24 mattino, tornando sulla vicenda che di fatto ci ha fatti ripiombare questa settimana a 14 anni fa, gli eventi del G8 di Genova. La vicenda ormai la conoscete tutti, da dove è scaturita. Su Facebook, Fabio Tortosa, agente di polizia che quel giorno, il 21 luglio del 2001, entrò nella scuola Diaz, scrive: rientrerai mille volte in quella scuola. Quella scuola dove, secondo la Corte Europea dei Diritti Umani, l'Italia compì atti di tortura attraverso alcuni agenti delle forze dell'ordine. E che succede? Le polemiche inevitabili, la sospensione. Fabio Tortosa è stato sospeso. È stato sospeso anche un dirigente della polizia di Cagliari che aveva scritto, aveva cliccato, sapete, su Facebook il mi piace, aveva fatto un like, mi piace, su questo e altri commenti di Tortosa. Questo è il pugno duro del capo della polizia Pansa. Certo, Tortosa poi aveva detto delle frasi anche molto molto dure su Carlo Giuliani, ucciso in piazza di Monda il 20 luglio. Giuliani fa schifo e fa schifo anche ai vermi sottoterra. Di questo, per la verità, si è scusato più volte lo stesso Tortosa. Chiedo umilmente perdono alla famiglia Giuliani per le mie parole, che non sono da uomo e non sono da me, perché purtroppo ho vissuto in famiglia lo stesso dolore e so cosa significa per una madre e un padre sopravvivere al proprio figlio. Anche oggi sul giornale ribadisce Tortosa: chiedo umilmente perdono per questa frase. Non so, perdono accettato, comunque scuse accettate, lo voglio chiedere a Giuliano. Giuliani, voglio dire, il padre di Carlo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Le accettate come famiglia queste scuse, questo atto di contrizione di Tortosa? Ma vede, il problema non è di accettare o non accettare le scuse. Il problema intanto è ristabilire la verità di quei fatti. E allora, se mi permette, io vorrei proprio ricostruirli verbalmente, commentando tutta la documentazione che c'è intorno a quella vicenda, perché sono state dette e ancora vengono dette delle cose incredibili. Lei si riferisce sulla vicenda di suo figlio? Esatto. Però questo lo possiamo vedere in un secondo tempo, Giuliani, perché prima ovviamente... Sì, però mi pare che la cosa fondamentale è quella, perché altrimenti di che cosa discutiamo? Sì, però lei sa che Tortosa ha fatto dichiarazioni su suo figlio, ma Tortosa soprattutto è intervenuto sulla vicenda della Diaz, che è una vicenda diversa, sebbene avvenuta ovviamente nel G8. Intanto le chiedo, il fatto che sia stato sospeso, lei come lo coglie? Un fatto positivo oppure si è esagerato? Ma anche qui io non mi permetto di fare commenti che riguardano decisioni degli organi direttivi della Polizia di Stato. Io posso soltanto aggiungere che preferirei in ogni caso che ci fossero elementi rieducativi, e cioè rimettere in piedi un'attività formativa degli agenti della Polizia che non consenta episodi di questo genere. Allora, una delle cose che mi sento di condividere pienamente, detta per esempio dal SILP CGL, uno dei sindacati di polizia, è che bisogna rivedere assolutamente il meccanismo introdotto con la leva obbligatoria, per cui per entrare in polizia bisogna aver fatto la leva obbligatoria. La leva volontaria, mi scusi. Questo è, secondo me e secondo il SIP, un grave errore, perché vuol dire che nella polizia si arriva con una formazione militare che nega quindi la necessaria formazione civile di un agente di polizia, come era uscita dalla famosa riforma della polizia sostenuta da tantissimi agenti giovani allora, sto parlando degli anni, della fine degli anni 70, che culminò nell'81 con la riforma della polizia, sì, che trasformò appunto la polizia in una struttura assolutamente però civile. Le chiedo questo, signor Giuliani, questo è il punto, lei dice, su non tanto commentare se è giusto o meno che sia stato sospeso, altrimenti non però un commento sulle frasi che ha scritto su suo figlio e poi però sugli atti ripetuti di richiesta di perdono. Ma le frasi, ripeto, sono indegne di una persona che rappresenta lo Stato. Lei saprà che io mi sono anche permesso di inviare una lettera aperta al presidente Mattarella. Perché lo ha fatto? Perché chiede l'intervento addirittura del capo dello Stato? L'ho fatto perché se un rappresentante dello Stato, come un agente di polizia, dice quelle cose, l'offesa è fatta dallo Stato e allora la persona più autorevole che rappresenta lo Stato deve intervenire e mi sono permesso di dire che dovrebbe chiedere scusa. Poi non so se lo farà, ma voglio dire, mi sembrerebbe un gesto corretto. Ma non le basta il fatto che il capo della polizia, che ha detto mai più ci sarà un'altra Diaz, è intervenuto in maniera dura, perché è una sospensione dura, addirittura una sospensione per un dirigente di polizia che ha scritto ha cliccato un mi piace. Sì, questa è una cosa che se vuole considero ancora più importante, perché man mano che si sale di grado le responsabilità sono ancora più forti. Mi permetta di dire anche questo: nel caso dell'assassinio di mio figlio, il maggiore responsabile di quella vicenda, al di là di chi abbia sparato, era il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Gianfranco Fini, che presiedeva l'organizzazione di quelle porcherie che sono successe a Genova, e poi il capo della polizia Gianni De Gennaro, e poi il generale dei Ross, generale Gianpaolo Ganzi. Cioè i vertici che non sono stati in grado, secondo lei, di... Certo, tra l'altro per quanto riguarda il generale Gianpaolo Ganzi andrebbe sempre la pena di ricordare che, pur essendo il più alto in grado dei carabinieri presenti a Genova, qualche anno dopo, esattamente nel 2010, è stato condannato dal Tribunale di Milano a 14 anni e 6 mesi per reati connessi al traffico di stupefacenti. Però Giuliani, che risponde a quelli, e sono in tanti, le assicuro a sostenerlo, che suo figlio era un delinquente? Ma io voglio dire, a chi dice queste cose, potrei solo sporgere denuncia, come in qualche caso ho fatto. E allora, ecco, mi permetta qui di raccontare brevemente quello che è successo. Cosa c'è che non va, che non sappiamo, secondo lei? O che non volete sapere, perché poi invece basta andare su internet, clicca La Trappola, che è un documentario che io ho fatto rimettendo assieme tutta l'enorme documentazione che c'è su quella vicenda. Allora, un reparto di carabinieri arriva in piazza Alimonda verso le 4:30, massacrano un ragazzo dietro alle spalle della chiesa e hanno detto che era una bonifica, una cosa incredibile. Alle 5 devono chiamare un'ambulanza per questo ragazzo ferito, stanno lì ancora 20 minuti a riposarsi, a bere, a mangiare, per carità, cose assolutamente legittime, ci mancherebbe altro. Poi si rimettono improvvisamente in assetto di guerra, fanno un'azione, diciamo, per creare sorpresa, e aggirano, è documentato da un filmato tutta questa roba, aggirano l'aiuola centrale di Piazza Alimonda e vanno ad attaccare un gruppetto di manifestanti che, avendo visto queste cose minacciose, erano nascosti dietro una barricata. Stanno lì un minuto e poi scappano tornando verso la piazza. Naturalmente i ragazzi commettono questo errore di fiducia, dicono abbiamo vinto, no? Come se fosse uno scontro di quel genere, e si avviano. Le due camionette non si capisce perché erano lì, anzi il capitano Cappello disse che non dovevano manco esserci, si ostacolano una vicenda, dovrebbero fargli un corso di guida o ritirargli la patente, perché se non sono capaci di liberare due, ma comunque una di queste non si accosta a un cassonetto e non lo sposta, perché dietro il cassonetto c'è un collega che spruzza del liquido urticante all'indirizzo dei manifestanti che arrivano, che sono una decina, non di più. A un certo punto un manifestante con kiwi blu e caschetto giallo raccoglie da terra un estintore portato in piazza dai carabinieri, c'è una foto che lo dimostra, sì, e lo lancia verso la Jeep. Dal momento del lancio allo sparo che uccide Carlo passano 7 secondi. Li volete contare quanti sono 7 secondi? Sì, ma poi suo figlio l'ha preso in mano questo estintore. Certo, l'estintore è lanciato da questo gatto, non colpisce, non fa nessun danno, per fortuna. E viene preso poi da suo figlio. Rimbalza, cade per terra. Siccome la pistola è puntata e caricata già da tempo e già il primo lancio era contro quella pistola, Carlo, che è arrivato dall'altra parte, compie questo errore di fiducia, e cioè pensa: io te lo tiro per tirarti via quella pistola lì, ha capito? Cioè lei dice che vuol tirare l'estintore per buttare via la pistola, non che fosse, ma come non dire per ammazzare, no, ma non per no, ammazzare, ma non un che fosse come di dire un gesto di no, questo come no, ma viene no. detto come viene detto Scusi, però lei dice butta sciocchi. L'estintore contro la pistola, forse butta l'estintore per un gesto di rabbia nei confronti o dei carabinieri, che quella situazione, disarmare una pistola lanciando un estintore mi sembra un po' complicato. Ecco, comunque a 4 metri di distanza, non a 20 centimetri, come farebbero pensare alcune fotografie scattate col teleobiettivo. 4 metri li vogliamo valutare rispetto alla pericolosità. Sì, ma lei e non poi... crede. Lei la domanda, però, scusi, che si sono fatti molti. Scusi ancora. Sì. Ci sono ancora 3 cose da dire. Primo, perché un reparto di 80 carabinieri che a 20 metri non interviene a difesa della Jeep? Intorno alla Jeep ci sono dietro la Jeep ci sono 12 manifestanti, al meglio 12 persone, dentro le quali ci sono persino 3 fotografi. 80 carabinieri non intervengono a difesa della Jeep contro 12 però, persone. Giuliani, una domanda che si fanno molti è anche perché suo figlio fosse lì, perché sa molti, ma perché era lì insieme a tanti altri. Ma leggetevi la sentenza della Corte certo, di Cassazione. No certo, ma perché era lì con l'estintore in mano, con l'estintore in mano era lì, lo raccoglie da terra in 7 secondi e lei mi dice che era lì con un estintore in mano? No, voglio dire, nel momento della foto, ma cioè, ha capito perché... cosa sono 7 secondi? Ma certo che ho capito cosa sono 7 secondi, e però allora, la questione a dire le cose per come sono lei, altrimenti... ma certo, ma quello che voglio chiedere, lei si è mai chiesto in questi anni se suo figlio non avesse avuto l'opportunità, che ne so, di scappare, di non essere lì, di non affrontare a viso aperto? Si è fidato, questo è l'errore più grave commesso da lui e dagli altri. Hanno avuto fiducia, pensato che non arrivassero a sparare, questo è il punto. Ma mi faccia concludere, e quindi scusi, per se non si arriva a sparare è lecito gettare una un estintore? Ripeto, le responsabilità sono poi di tutti gli alti gradi, a cominciare dagli ufficiali che erano lì. Ma quello non c'è dubbio sulla preparazione, allora, su tutto quello che è successo, ma poi il fatto in sé non è che c'è l'ufficiale in quel momento che è lì in piazza Limone. C'è una responsabilità dello Stato, perché l'ufficiale rappresenta lo Stato ancora più del carabiniere ausiliario, e non sono intervenuti a far nulla. Ma la cosa poi è ancora più violenta. Lo sapete, sì, no? Cos'è successo? Carlo, lì per terra, moribondo, viene preso a sassate in fronte da un carabiniere per mettere in atto quello squallido tentativo di depistaggio, no? Vi ricordate il vicequestore Adriano Lauro che rincorre un manifestante gridandogli assassino, pezzo di M, bastardo, sì, sei stato tu a ucciderlo col tuo sasso? Ma questa sono cose. Ma per lei non c'è ancora tanto da chiarire da questa vicenda. Per concludere, no, però, le chiedo. Non c'è nulla da chiarire, c'è insomma, soltanto ci sono da capire che le cose sono andate così. Per poi, concludere, le chiedo: sì, servirebbe secondo lei, come chiedono in molti, a distanza di 14 anni, una commissione d'inchiesta parlamentare? Certo, quella potrebbe essere una cosa utile. Perché è chiaro che anche l'omicidio di Carlo non ha avuto nemmeno un processo, vogliamo capirla questa cosa? L'archiviazione si fa in una stanzetta di un tribunale, non in un'aula dove ci sono i contraddittori, le discussioni, sì, si portano le testimonianze, eccetera. Quindi e hanno voluto liberare il tavolo dal fatto più grave che è successo, per poter dire che tutto a Genova era andato bene. Ah, va bene, quindi lei dice una commissione d'inchiesta è quello che potrebbe aiutare a scoprire alcune cose. La ringrazio ovviamente per essere stato con noi. Giuliano Giuliani è il padre di Carlo Giuliani e noi continueremo dopo la pubblicità. Avremo ospite l'ex ministro della giustizia Roberto Castelli, che all'epoca era proprio ministro della giustizia, un poliziotto del reparto mobile di Genova, Riccardo Gazzaniga. A quelli che scrivono dopo questo intervento, dopo aver dato la parola al padre di Carlo Giuliani, non ascolto più Radio 24. Ciao, buona vita, vattene. Siamo qui dunque, 8 e 40 minuti dopo aver ospitato Giuliano Giuliani, il padre di Carlo. Voglio salutare altri due ospiti, continuiamo su questo tema del G8. Intanto un poliziotto del reparto mobile di Genova, è un delegato sindacale della SILP CGL, cioè quella sigla che lo stesso padre di Carlo Giuliani ha citato, è anche autore di libri, ha scritto uno dal titolo Avviso coperto, edito da Einaudi, è Riccardo Gazzaniga. Buongiorno e benvenuto Gazzaniga. Buongiorno Alessandro, grazie. E saluto anche Roberto Castelli, che era ministro alla giustizia all'epoca del G8. Ben ritrovato Castelli, eccoci qua. Buongiorno. Allora, siamo ripiombati in quell'epoca lì, ha visto Castelli. Ma lei come giudica la sospensione di questo poliziotto e anche di quello che ha scritto e ha cliccato il mi piace, no? Sui commenti di questo. Ma guardi, se mi consente vorrei fare prima una premessa di carattere generale, sì. Poi entreremo nello specifico. Io credo che in questo momento tutti coloro i quali hanno a cuore la sicurezza del paese debbano stringersi intorno alle forze dell'ordine e gridare ad alta voce la solidarietà con tutti gli operatori della sicurezza. Perché dico questo? Io vedo, non so se è un piano premeditato o se è semplicemente una concomitanza di fattori, ma vedo un'invasione organizzata nell'Italia da parte dell'Africa. Dico organizzata perché chiunque abbia occhi per vedere sa che le navi della Marina Militare Italiana vanno a prendere nelle acque libiche, sì, questi clandestini e li portano in Italia. E quali intenzioni abbiano molti di questi l'abbiamo visto ieri. Vedo la depenalizzazione di 112 reati per, sì, cui da oggi gli scippatori, i furfanti, gli occupatori, quindi gli è pericoloso delegittimare le forze dell'ordine, le dice. Vedo il reato di tortura, e su questo vorrei sapere il parere del mio interlocutore, sì, che se mal interpretato, e sicuramente larga parte della magistratura italiana lo interpreterà male, legherà completamente le mani a queste persone, perché c'è il cosiddetto reato di tortura psicologica che è pericolosissimo. Sì, però mi scusi Castelli, dire che alla Diaz quell'episodio fu una vergogna non è essere contro la polizia, eh? Io sostengo no, questo. No, ma io lo vedo questo, anche questo recupero, diciamo, di un episodio di 14 anni fa contribuisce al quadro che io sto dicendo, cioè a destabilizzare completamente le forze. Però ripeto, è il capo della polizia attuale, Pansa, il primo a dire, evidentemente ad avallare questa sospensione. Ragiono con la mia testa, non con la testa del capo della polizia, che è stato nominato da una parte politica e quindi deve essere grato a quella parte politica. Io le cito solo un episodio, è una domanda che faccio da 14 anni. Quella notte, non parlo della Diaz, che io a Diaz non sono stato, parlo di Bolzaneto. Sì. A Bolzaneto c'erano dei testimoni, che erano il sottoscritto e gli uomini della mia scorta. Le par possibile che nessun tribunale ci abbia mai interpellato? Cioè, questi hanno ricostruito una verità che dovrebbe essere una verità storica prima che giudiziaria, sì, senza interpellare i rarissimi testimoni che erano presenti quella notte, cioè i testimoni terzi, perché gli altri sono o gli accusatori, e quindi sicuramente non possono essere testimoni, sì, o gli accusati, quali si difendono. Bene, c'erano là 5 persone o 6, adesso non ricordo più quanti, mai chiamati da nessuno. Vabbè, questi dubbi. Io però faccio questa domanda, la faccio ancora oggi, vorrei che qualcuno mi rispondesse. Io vorrei invece chiedere a Riccardo Gazzaniga, che ieri ha fatto un intervento accorato sul Fatto Quotidiano. Gazzaniga, io l'ho letto, cioè a dire siamo ancora inchiodati a quegli episodi e a raccontare il paese come si racconta per tifoserie, cioè essere o pro o contro, o stai con le forze dell'ordine o stai con quelli che molti chiamavano le zecche, i black bloc. Perché questo paese è così, Gazzaniga? Ma credo perché si crea sempre questo clima da, appunto, da, da ultra della polizia o contro la polizia, che non è quello che secondo me, nel mio personale parere, ci può giovare. Io credo che ritornare su questo, sul G8 sia in qualche modo sia chiarisce quanto questo, i fatti sono ancora una ferita aperta, anche perché ci sono stati forse sicuramente, anzi troppi silenzi da parte sia della nostra amministrazione che da parte della politica, no? In merito alle responsabilità, anche le responsabilità politiche e gestionali che mandarono, che fecero naufragare la gestione dell'ordine pubblico in quel vertice. Però non possiamo nemmeno dire che l'intervento del mio collega, quello che ha scritto, sia assolutamente, dal mio punto di vista, censurabile, nel senso che... Cioè, è censurabile per lei? Sì, sì, non entro nel merito del tipo di provvedimento disciplinare, perché poi bisogna vedere il regolamento, quello che gli viene contestato, parlerei senza conoscere i fatti, però nel merito non è accettabile, diciamo, scrivere di queste parole, soprattutto quelle poi rispetto... Su Giuliani, per il quale peraltro ha chiesto più volte perdono, sì, però lei ieri per esempio ha scritto: io lavoro a Bolzaneto, ma sì, ricordiamo, esatto, che di quella vicenda, per quella vicenda nessuno di Bolzaneto è stato coinvolto, esatto, però abbiamo questo marchio, no? Dire Bolzaneto, sì, subito ricorda chissà cosa. Certo, sì, perché comunque anche su quel fatto poi c'è una verità giudiziaria che è acclarata, quindi non siamo qui a contestarla, semplicemente non è emerse poi la realtà dei fatti, per esempio che gli operatori che poi lavoravano in quella caserma non furono assolutamente coinvolti nei fatti di Bolzaneto, come un po' tutta la polizia genovese fu commissariata in quel momento e durante il vertice. E questo invece, purtroppo, noi che lavoriamo a Genova, a distanza di 14 anni abbiamo dei ragazzi qui che nel 2001 magari andavano alle scuole medie E si sentono dire questo marchio lavori a Bolzaneto, un torturatore di Bolzaneto. Ecco, questo è un clima veramente a volte difficile anche per a questo proposito, cosa risponde a Castelli che dice c'è il rischio di questi fatti che riemergono dopo tanti anni possano delegittimare in un momento delicato del paese le forze dell'ordine? Lei lo condivide? Il problema è che l'importante è che stiamo attenti a non delegittimarci neanche magari con certe dichiarazioni che poi gettano delle ombre, no? Su di noi. Io ho sentito parlare prima anche di una commissione d'inchiesta che senza dubbio potrebbe essere un passaggio importante, non tanto dal punto di vista della vicenda responsabilità penali, perché quelle ormai sono, come si dice, congelate, no? Per provvedimenti giudiziari, però magari per le responsabilità, appunto, anche politiche e gestionali, sicuramente sono rimaste delle ombre, e queste ombre e ci vorrebbe che riemergano. Castelli, ecco, ci vorrebbe, perché questa commissione d'inchiesta non è mai stata fatta? È stata affossata? Ma non è vero, c'è stata. Beh, no, una commissione d'inchiesta proprio... No? E comunque io ricordo che l'unica istituzione che mi ascoltò fu la Camera dei Deputati su questi fatti, perché venne fatta un'inchiesta su questi temi. Un'inchiesta, però una commissione credo non sia mai stata fatta, no? Ma guarda, io ne ho viste tante commissioni d'inchiesta del Parlamento. Sì. Non credo a queste commissioni, che ciascuno va dentro con le sue lenti ideologiche e con già la verità in tasca. Su questo sono d'accordo con lei, cioè in Italia quando si fa una commissione serve a cercare di far passare le proprie convinzioni precostituite, quindi Però, non serve assolutamente a nulla. Io dico soltanto che c'è un fortissimo clima, secondo me, teso da un lato a abbassare assolutamente il livello di sicurezza del paese e dall'altro di aggressione verso le forze dell'ordine. Però mi scusi, perché se Tortosa non avesse scritto questa cosa, sinceramente non è che è stato assolutamente ingenuo e certe cose non le doveva scrivere. Ora però da questo a insultare Carlo Giuliani, cosa assolutamente disdicevole, da condannare nel modo più assoluto, a santificarlo, però ce ne passa tantissimo. Nessuno lo santifica, infatti. E gli hanno addirittura intitolato al Parlamento. Secondo lei quella è una vergogna? Una vergogna, un atto ideologico totalmente inopportuno e un'offesa, direi, alle forze dell'ordine. Ma io le faccio una domanda, lei che è una persona di grande onestà intellettuale: se non ci fosse stato il filmato e le fotografie che testimoniano in maniera inequivocabile quello che è successo a Carlo Giuliani. Oggi come parleremmo di Carlo Giuliani? E Palacanica dove sarebbe? Guarda, faccio questa domanda, sì, vorrei che qualcuno... Qui Giuliano Giuliani ci ha detto in realtà che ci ha detto che le immagini dicono delle verità diverse, insomma, poi dalle immagini... No, questo povero ragazzo a cui va evidentemente tutta la nostra pietà, però è stato ripreso, intanto che faceva un atto come minimo teppistico e probabilmente criminale, perché se qualcuno si fosse preso in testa un estintore di quella massa sarebbe morto. Quindi questo è il dato di fatto, da questo non si scappa. Allora andiamo così, facciamo le informazioni sul traffico, poi vorrei chiedere a Gazzaniga, visto che è un poliziotto, è un delegato sindacale, visto che fa anche servizi di quelli che si dice negli stadi, no, è un poliziotto in prima linea, quando il capo della polizia dice mai più una scuola Diaz, che vuol dire? Cioè che tipo di sicurezza abbiamo oggi a distanza di 14 anni per cui non potrà mai più accadere, come dice il capo della polizia, una cosa del genere? Siamo qui allora con Roberto Castelli, ministro alla giustizia all'epoca del G8 di Genova, e Riccardo Gazzaniga, poliziotto del reparto mobile di Genova. Gazzaniga, che tipo di rassicurazione dobbiamo avere per capire che non ci sarà più un episodio del genere? Allora, fermo restando che la Diaz è una pagina nerissima della storia italiana e anche della polizia. Credo che queste parole del capo della polizia vadano nel senso che sull'ordine pubblico sono stati fatti anche dei passi avanti con l'istituzione di una scuola dell'ordine pubblico, cercando di aumentare la formazione del personale, però io dal punto di vista sindacale mi sento di rivendicare il fatto che ancora non c'è stata nemmeno a livello politico una discussione chiara, no, sull'ordine pubblico in Italia, su che modello si vuole. Faccio un esempio brevissimo, il poliziotto che magari deve intervenire sui tifosi del Feyenoord che danneggiano una fontana ha un certo tipo di consenso, gli viene richiesta la massima durezza, il poliziotto che si trova in un altro contesto con magari persone armate di fronte può essere lasciato lì a subire magari un'aggressione fisica. Quindi ci vorrebbe una maggiore consapevolezza che servono delle codificazioni, anche delle regole per gli interventi in ordine pubblico, che siano condivise dalla polizia e anche dalla cittadinanza, è conosciuta a tutti, e questo è il modo secondo me di andare avanti e di capire, di poter giudicare anche se l'operato è stato adeguato. Sì, cioè lei dice quando ci sono i tifosi del Fender tutti a lamentarsi, i poliziotti dovevano usare i manganelli, per dirla brutalmente, poi quando magari ci sono le manifestazioni eccetera con gente che insulta, sputa, il poliziotto deve stare fermo, immobile lì, non può fare nulla. Esatto, a volte per il poliziotto che è lì è molto difficile proprio anche riuscire capire ogni volta in ogni parte d'Italia, anche in base alla città in cui ti trovi, al tipo di contesto che cambia sempre, e secondo me è difficile anche per il cittadino che vede delle immagini poi capire perché la polizia ha agito in un modo piuttosto che in un altro. Però questo dovrebbe essere, voglio dire, compito dell'istruzione, no? Di ogni poliziotto nell'addestramento, cioè sapere come comportarsi in ogni occasione, no? Esatto, questo è vero, ma al tempo stesso però noi siamo in un'amministrazione in cui la responsabilità, diciamo, di chi gestisce, di chi prende la decisione di come impiegare magari il personale è molto diversa da quella poi dell'operatore, che invece ha una responsabilità proprio penale, giudiziaria, mentre si risponde meno di certe scelte appunto di opportunità. E quindi secondo me parlare proprio di codici, di capire che modello di ordine pubblico vuole questo paese, secondo me è quello il passaggio da fare da operatore. Questo staremo a vedere. Intanto io devo concludere, Castelli, qui ho 30 secondi a capire, ma ci fu un errore in quell'organizzazione del G8? Perché dire che andò tutto bene con un morto, con la Diaz, cioè che cosa non funzionò secondo te? Cosa fu sbagliato? C'è il problema irrisolto dei black bloc. Sì, ma ci sono dappertutto, furono, però. Perché in ogni manifestazione ci sono questi black come black. Agirono a Genova, non agirono mai prima in tutto il mondo e non agirono mai più dopo. Questi comparvero dal nulla, erano praticamente in uniforme, avevano un'organizzazione militare. Usarono tecniche di guerriglia urbana su cui la nostra polizia era totalmente impreparata e poi sono spariti nel nulla. E quindi su questo la polizia nostra venne colta di totale sorpresa. Ma il problema di chi furono questi, chi erano, nessuno lo sa. Nessuno si è mai preoccupato di capire chi fossero. Erano sicuramente delle persone organizzate, erano dei professionisti, non si sa da che parte sono venuti, non si e la polizia rimase sorpresa. La polizia venne in questo almeno si può dire che ci fu una, non so, ma non adeguata preparazione a questo fenomeno, evidentemente. Sì, perché era imprevedibile. Io proprio voglio dire una cosa, no. Parlo da ministro della giustizia, il sistema che noi avevamo messo in piedi per coinvolgere e gestire gli arrestati funzionò perfettamente. Funzionò. Si fermi qui però, perché sennò sforo, e ci sentiamo lunedì mattina.